ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ci sono città dove le targhe che ricordano i morti innocenti ammazzati dalla mafia da sole formano una lunghissima via crucis del dolore, e se si uniscono tutte le città italiane coinvolte in un modo o nell'altro nelle trame mafiose vecchie o recenti, emerge un percorso nella geografia criminale che va dal mare della Sicilia alle vette delle Alpi. Così come a scorrere i nomi e le storie di chi la mafia l'ha fatta o l'ha subita è come sfogliare un atlante della storia nostrana. Le mafie in Italia c'erano da prima dell'Unità d'Italia e ci sono rimaste, adesso adattandosi e modificandosi. Le mafie in Italia sono una realtà così profonda e così complessa da richiedere un dizionario enciclopedico per raccontarle e divulgarle, con un'ambizione: farle conoscere a quante più persone possibile, perché le mafie riguardano ciascuno di noi, come ci tiene a ribadire più volte il curatore di questo dizionario enciclopedico delle mafie in Italia, edito da Castelvecchi, Claudio Camarca. L'obiettivo è raccontare questo fiume carsico rappresentato dai grandi conglomerati mafiosi di questo paese, che risale tutta la storia del nostro paese da molto prima dell'Unità d'Italia a giorni nostri. Far rendere edotti tutti i nostri cittadini che le mafie sono un problema che preoccupa e deve occupare tutti quanti noi, anche laddove non ci sentiamo toccati dalle mafie. Bisogna ricordarci che, soprattutto in un momento di crisi, laddove c'è una grande possibilità economica e soprattutto di liquidità economica, le mafie intervengono e acquistano locali, prendono appartamenti, prendono ristoranti, aprono discoteche, aprono sale giochi e quant'altro. È un problema questo che attiene al cittadino italiano, e quindi l'abbiamo scritto perché tutti quanti noi cittadini non possiamo dire non lo sapevo. Intorno alla questione delle mafie c'è un grande dibattito riguardante la divulgazione, proprio perché è un tema che o viene, diciamo, affidato un po' a chi segue costantemente questi problemi, sia nelle cronache giudiziarie che anche con i saggi. Dall'altra parte però è un tema anche che interessa i grandi numeri. La vostra è un'opera che ha insieme la componente scientifica ma appunto anche quella della divulgazione. Noi vogliamo rivolgerci innanzitutto come target ai ragazzi delle scuole, quindi abbiamo chiamato persone che sono in questo campo, che conoscono perfettamente il fenomeno e che sappiano raccontarlo in maniera piana, in maniera comprensibile, perché ripeto, se noi vogliamo combattere le mafie dobbiamo renderci noi per primi parte integrante del problema e della risoluzione di questo problema, però dobbiamo conoscerlo questo problema, e quindi per conoscerlo dobbiamo avere specialisti che sappiano raccontarcelo, sappiano spiegarcelo usando un linguaggio, ripeto, che sia molto facilmente fruibile. Per questo abbiamo avuto una redazione di 17 autori e poi abbiamo 70 collaboratori, fra magistrati, fra commissari di polizia, fra giornalisti, saggisti, storici e quant'altro, hanno saputo fare un'analisi scientifica profonda del fenomeno. Quindi abbiamo da una parte la grande divulgazione, dall'altra parte invece una forte scientificità. Sappiamo quanto sia cruciale nella lotta alle mafie, soprattutto da un punto di vista culturale, il parlarne. Sì. E questo è un grande assioma che da sempre grandi magistrati ripetono e soprattutto l'esperienza ripete. Ecco, in questo dizionario voi è sia un percorso, diciamo, nella memoria dei fatti successi in Italia, nei personaggi, nei protagonisti, sia, diciamo, quelli negativi che quelli che la mafia l'hanno fatta, sia quelli che l'hanno subita, e nei numeri. Ci può in qualche modo sintetizzare questi percorsi, come se sfogliando questo enorme dizionario enciclopedico antimafia, che cosa ci aspettiamo? Ad esempio, per la geografia si passa da luoghi imprescindibili come Portella della Ginestra, Capaci, Via D'Amelio, ma anche attraverso luoghi che sono forse meno noti. Così avviene anche con i protagonisti. Come sono stati scelti e che tipo, se ci dovesse guidare nello sfogliare questo dizionario? Ma a me piace dire una cosa, noi questa è la garzantina sulla mafia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Quindi dalla A alla Z noi ripercorriamo pedissequamente ogni nome, ogni luogo, ogni storia. La cosa che a me piace dire sempre è che ogni lemma, sono oltre 4.600, di fatto è una piccola storia. Ecco, vediamole alcune di queste. Ad esempio, quelle sui luoghi. quali le vengono in mente, al di là di quelli, diciamo, dei luoghi imprescindibili della geografia mafiosa italiana e drammatica anche? Tra i tanti che le ha lette, qualcuno che le ha incuriosita di più, qualcuno meno noto, qualcuno più simbolico? Guarda, a questo riguardo mi viene in mente immediatamente un luogo per noi importantissimo, che è Rosarno, dove noi raccontiamo con il lemma base quello che accadde, l'eccidio, la strage di lavoratori migranti di colore, e poi abbiamo a fianco a questo ospitiamo un testo autoriale di Jean Leonard Toadi, che al tempo, adesso è deputato della Repubblica, al tempo era giornalista e, essendo lui di colore, andò a raccontare lì quello che accadeva, e lui mette in relazione con il concerto che fece Miriam Makeba a Castel Volturno, dove poi morì. Esattamente, lei morì là nel momento in cui c'era quello che stava accadendo, la rivolta di Castel Volturno. Quindi noi mettiamo Rosarno, Castel Volturno, cioè dei luoghi simbolo, da una parte raccontati esattamente come una cosa scientifica, quindi quello che è accaduto, dall'altra parte una lettura alta di protagonisti di quei luoghi stessi, per dare al lettore la possibilità di entrare anche dentro questa storia, che non è una storia solo di numeri, ma anche una storia di passioni, di anime, di corpi. Deve essere imprescindibile. Questo è un problema che attiene a tutti quanti noi, e io sono convinto che si combatta le mafie, la camorra, l'andrangheta, la sacra colonialità, non parcheggiando in seconda fila, non buttando la sigaretta dal finestrino. Il rispetto della legalità è, sì, diciamo, come modo di comportarsi, e quindi a catena come modo di combattere anche le mafie. Di sicuro abbiamo ricordato alcuni luoghi, ma la lotta alle mafie, oppure la storia delle mafie, è fatta anche attraverso molti volti di chi, appunto, la mafia l'ha fatta, dei mafiosi, e di chi l'ha subita. Capitolo delle vittime, sono tantissime, alcune sono quelle eccellenti, alcuni sono quelli che hanno contribuito a costruire anche il tessuto sociale dell'antimafia, dai grandi magistrati uccisi alle forze dell'ordine, insomma, ai nomi che tutti ricordiamo, ma ce ne sono molte altre anche che sono anche abbastanza sconosciute, perché l'Italia ne ha subite tante di vittime di mafia. Attraversare, sfogliare questo dizionario e anche entrare un po' nelle loro storie, quante di queste aspettano anche ancora una risposta, e in che modo vi siete relazionati rispetto al racconto delle vittime? Innanzitutto noi abbiamo fatto una scelta a monte, figlia di tante elaborazioni, tante discussioni collettive, che era quella di mettere nel dizionario enciclopedico solamente le vittime evidentemente vittime della camorra, della mafia, della comunità organizzata. Certo che questo poi apre il capitolo anche di tutto ciò che non è così esplicitamente riconducibile ad un delitto di tipo mafioso, e questo riguarda anche tutte le leggi che riguardano poi i risarcimenti per i familiari delle vittime. Ecco, ma all'interno di quelle che sono dichiaratamente e esplicitamente, senza alcun dubbio, vittime di mafia, in Italia purtroppo ce ne sono state tantissime. Ci sono racconti di bambini uccisi e racconti di donne. Come lo avete scelto, selezionato? Che cos'è andare a guardare l'elenco delle vittime che voi raccogliete? È un po' una sorta di cimitero delle vittime di mafia? Ma noi non abbiamo selezionato. Noi abbiamo selezionato in base a quello che abbiamo detto prima, cioè laddove la vittima è chiaramente vittima innocente di criminalità organizzata. A fronte di questa scelta abbiamo stilato giù l'elenco delle vittime. La storia che ha colpito me di più è sicuramente la storia di una studentessa universitaria fiorentina, di 22 anni, mi scusi, che conosce un studente universitario calabrese a Firenze, fuori sede, e nasce una storia d'amore meravigliosa, a tal punto che questo ragazzo va a vivere a casa, dopo un po', a casa di lei. I genitori di lei a un certo punto vanno a fare la vacanza in Calabria per conoscere i genitori di questo ragazzo, e nasce un'amicizia fra famiglie. Questa storia d'amore va avanti per 3 anni, fino a quando il padre di questo ragazzo in Calabria viene sparato alla testa. Il figlio scende e il figlio stesso viene sparato, e si capisce che dietro questa famiglia per bene c'era in realtà una storia di faida sepolta, perché era una faida trasversale. Che succede? Che questa ragazza corre dal suo fidanzato ferito e addirittura lo incita a denunciare, e stiamo parlando di studenti universitari che vivono a Firenze. Il ragazzo si fa convincere, denuncia, dopodiché parte la macchina della giustizia, il ragazzo viene raggiunto in ospedale da un cognato che lo preleva e lo nasconde, e attraverso una lettera ritratta quanto aveva detto poc'anzi al magistrato. La ragazza inizia a cercarlo, non lo trova più, fargliela breve, lei diventa testimone di giustizia, e viene uccisa, ti viene prelevata, rapita, messa sulla, nascosta sulla fronte e viene uccisa in un modo che bestiale, addirittura si dice che alla fine i suoi resti furono buttati in una tonnara, e stiamo parlando di una storia di 10 anni fa. La cosa che a me ha colpito qual è? È che appunto le mafie attengono a tutti, no? Si parla di una storia d'amore a Firenze fra studenti universitari e invece si diventa vittime di una faida della Locride. La conoscenza è il primo stadio di una consapevolezza e quindi di una lotta antimafia. L'obiettivo è di far sì che conoscere svegli le coscienze, come dice Don Ciotto. No, io non so se noi riusciamo a svegliare le coscienze. A me la cosa che ha colpito, e che intendo sottolineare, è che nessuna delle personalità da me contattate mi abbia mai rifiutato un testo, o mi abbia mai rifiutato, come nel caso di Raffaele Cantone, 4 scritti, o Don Luigi, 4 scritti di pagine e pagine. Quindi vuol dire che da parte loro c'è una grande volontà, una necessità quasi esistenziale di mettersi in un cammino ormai intrapreso da anni. Da parte nostra è stato quello di fare con grande umiltà, di dare al pubblico con grande umiltà un'opera che non c'era, perché non c'era prima, e sulla quale si può, penso, grazie a questa si possa contribuire anche a questo percorso di verso un universo, verso un paradiso, verso una meta migliore, perché ripeto, la cosa fondamentale è ricordarci che questo è un problema che attiene a tutti. Io so essere fondamentale. La mafia non la combattono i magistrati, la combattiamo noi cittadini, e la combattiamo anche quando stando fermi. Vuol dire che se stiamo fermi siamo colleghi di quei mafiosi, siamo correi di quella mafiosità. 519 vittime della mafia siciliana, 292 dell'Ndrangheta, 197 della Camorra. Anche solo questi numeri dimostrano quanto le mafie riguardino tutti noi, ma non sempre vengono raccontate nel modo opportuno. A ciascuno il suo. Abbiamo cercato di raccontare una donna con una grande passione, che da sola sfida la Camorra. Ci è sembrato che fosse un giusto star di Aicol per Manuela Arcuri. Ma una donna estremamente forte, una donna determinata, molto coraggiosa, però una donna passionale. Io quando andavo in questura andavo con le idee chiare di dire: guardate, mio marito prima di morire mi ha detto chi l'ha fatto uccidere questo Esposito. Poi purtroppo un giorno l'ho incontrato e lui ha incominciato a sparare e ho sparato anch'io. Questo è stato l'ultimo fronte di polemica. La fiction Pupetta su Canale 5 sulla storia di Assunta Maresca, la donna che vendicò la morte del marito camorrista, incarnata sul piccolo schermo dalle belle forme di Manuela Arcuri, è stata solo l'ultima occasione di polemica intorno alla divulgazione e alla rappresentazione delle vicende di personaggi del mondo criminale. Era stato anche chiesto di bloccare la messa in onda perché in questo caso, come si disse pure dei protagonisti di Romanzo Criminale, ad esempio sulla Banda della Magliana, si contesta una mitizzazione di uomini e di donne che hanno commesso invece reati. Il male affascina e la replica in genere, ma che effetti possono avere rappresentazioni di questo tipo? Se lo chiede, tra gli altri, davanti anche alla gran quantità di opere di ogni genere dedicate alle mafie, il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, per anni alla guida dei magistrati palermitani e autore della prefazione del dizionario enciclopedico. Le pubblicazioni, le ricerche, gli studi sul versante della mafia e dell'antimafia sono moltissimi, negli ultimi tempi in particolare si stanno moltiplicando, persino affollando. Però ci sono varie categorie, ci sono i libri di alta specializzazione, destinati se non esclusivamente quasi agli addetti ai lavori, poi ci sono i libri, le ricerche di levatura molto inferiore, mi riferisco in particolare a certi film, a certi originali televisivi, dove tutto viene banalizzato. Qualche volta addirittura il male è mitizzato con effetti nefasti. Poi ci sono opere intermedie, le più significative, come questa, di alta divulgazione, perché si tratta di opere scientificamente valide, ma al tempo stesso capaci di divulgazione, cioè di rivolgersi a un pubblico molto vasto, anche giovani, soprattutto giovani, in grado, pur non essendo degli specialisti, pur non essendo addetti ai lavori, di fruire, godere, apprendere, conoscere, approfondire, grazie alla capacità di alta divulgazione, questi temi di solito complessi, che complessi rimangono, ma qui sono decifrati nella loro complessità. Conoscere per cambiare, sapere ad esempio per far sì che non ci sia più la strage di aziende che muoiono una volta confiscate e passate nelle mani dello Stato. Una delle ultime battaglie di Libera e del suo fondatore Don Luigi Ciotti. C'è una cultura mafiosa che gira, basta guardare delle leggi che non sono passate, che sono state ostacolate, che non si riescono a graffiare fino in fondo. Il paese ha bisogno di un grande cambiamento, ci vuole una radicalità nel contrasto, perché è da 400 anni che noi parliamo di Camorra, sono 150 anni storicamente che parliamo di Cosa Nostra, a fianco delle positività che non possono essere dimenticate, il grande lavoro di magistrati, le forze di polizia, di parte delle istituzioni, ci sono ancora dei vuoti impressionanti. Noi abbiamo voluto riflettere, far emergere quell'informazione corretta, quei testi corretti, quei film corretti. Questo è un dizionario enciclopedico di grande valore, ma c'è ancora tanta spazzatura, tante cose che non aiutano a riflettere nel modo giusto. La lotta alla mafia vuol dire politiche sociali, vuol dire sostegno alle famiglie, lotta alla povertà, vuol dire lavoro, vuol dire una società che non si preoccupa di giovani ma che se ne occupa realmente, perché da anni che sentiamo questo ritornello. Vuol dire politiche sociali a 360 gradi, ma vuol dire anche leggi giuste. La legge sulla corruzione nel nostro paese non rispetta i criteri che l'Europa ci chiedeva dal 1999, ma nel frattempo sono passate delle leggi che hanno depotenziato tutto questo. La legge sul gioco d'azzardo è una legge che ancora non ha affrontato questo nodo. È 20 anni che attendiamo una legge che mette nel codice penale reati contro l'ambiente. Sui beni confiscati ci sono delle proposte, c'è un bravo direttore dell'Agenzia Nazionale che da un anno chiede delle modifiche, perché su 1663 aziende confiscate solo 35 sono sopravvissute, lì c'erano posti di lavoro, c'era dignità delle persone. Allora sono dei nodi che devono essere affrontati. Il 75% dei familiari di vittime di mafia non conosce la verità, lo conosce solo in parte. Il problema dei testimoni nel nostro paese, ci sono gente che si è incatenata davanti al Viminale per chiedere una maggiore attenzione nei loro riguardi. C'è magari chi ne abusa, ma c'è anche chi giustamente chiede una serie di tipi di interventi. Allora, vogliamo prendere seriamente questo pacchetto, affrontarlo? La lotta alla mafia la si fa certamente con l'educazione, con la cultura, con le politiche sociali, con il lavoro della magistratura e delle forze di polizia, ma la si fa in Parlamento, innanzitutto con le leggi giuste, gli interventi giusti. Vediamo delle resistenze, vediamo i giochi di questi giorni, qualcosa ci pone inquietudine. Sapere però sorprende e lascia quasi sconvolti, come è successo anche a Mara Filippi, coinvolta nel progetto in quanto moglie di Roberto Morrioni, che questo dizionario l'aveva voluto, ma poi non l'ha poi visto stampato. Io per il lavoro di mio marito mi sono accostata già da qualche bel po' di anni a questo argomento. Però vedere tutti insieme una mole di centinaia e centinaia di storie di vittime del tutto sconosciute, ignare, di cui noi non sappiamo praticamente nulla, perché nel momento in cui c'è un familiare che poi si prende la briga di assumersi tutto questo dolore e di andare a scavare, andare a ricercare, andare a ricostruire anche la storia della persona, perché non dimentichiamoci che spesso le vittime di criminalità organizzata vengono anche poi denigrate dai loro stessi uccisori, per cui spesso la famiglia quando ce la fa, quando anche psicologicamente ce la fa, cerca di recuperare la vera memoria dello scomparso, della persona vicina. Ecco, allora in quel caso si è riuscita ad aggiungere una riga in più. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti.